Ladies and gentlemen, this is a showtime! The Circus of Psychic Problem Ride! Abbiamo gli stessi problemi, siamo come dei dementi a cui sono cresciuti le ali. Siamo come dei marinai verso una nuova tempesta. Siamo fuori di testa, siamo per questo un po' matti che non ci battono neanche più in testa. Da quando è fuori sta cavaressa? E mica sono solo pazzo, sono uno a cui non gli piace il cazzo, ma gli piace la pussy. Gli piace la passera perché ha in testa soltanto grandi fiche. E questo è il piano che mi sono predisposto, grandi fiche tutto il giorno. Sesso tutti i giorni, tutto il giorno, 5-6 volte al giorno. E se c'è qualcuno che contesta, beh, lo deve fare in fretta sotto questa pagina. Non vi mettete a ridere, è un context di chi riesce meglio a fare il commento peggiore per fare perdere a qui presente l'amore nuovo della sua vita. Vorrei dedicarti Cornicita, una canzone che ti possa dire quanto t'amo e senza sclerodirlo per davvero. Questo è il cuor leggero di un viaggiatore in ipnosi, regressa verso una terra promessa. Cazzo, continua a mancarmi di rispetto. E adesso come faccio? Devo chiedere al dottore se ha due pillole in più per fermare questo test che dura ormai da 24 ore. Signore e signori, non ho più voglia di parlare, vi presento un mio caro amico, Max. Mica, com'è fare un Magix? Beh, minchia, bella lì, figata, minchia. Bene, adesso avete capito più o meno cosa stiamo parlando, qual è la mia posizione riguardo al goldone? Beh, lo metto sempre in ogni posizione, qua, beh, arriva quello che è il teppista della situazione. Che fa sempre quello che gli pare, vuole trovare un'astronave per partire per Marte e andare da quella parte dove si guadagnano soldi, si hanno donne tutti i giorni e la fama di un mostro. Ecco perché quando sta al mio posto mi dicono bravo e abbattono con le mani tipo uno squalo intero cito che sembra avere allungato il dito verso quelli che si oppongono alla nostra fratellanza. Noi siamo in minoranza etnica, siamo dei pazzi, siamo soltanto dei bravi ragazzi che vogliono farsi un cannone ogni tanto. Mi dica, professore, qual è la sua posizione su questo riguardo? Beh, non lo so, secondo me la sociologia di questo gruppo è molto forte e evolutiva. Sì, evolutiva.